Firenze, capii che non sarei mai tornato, lasciavo alle spalle la mia patria, il mio fiato, accecato da troppa luce, con in mano un destino, una croce, un rosario di perle d'argento, che regalai al mendicante del tempio, dove il silenzio regna. È più facile vedersi dentro. La mia terra fu da quel giorno solo poesia, solo il mio canto. La mia terra, solo poesia, solo canto. Insetti giganti hanno bevuto nella fontana del mio inconscio, con un piede appeso ad una corda, nel vuoto una ferita a forma di guscio. Svolazzai nel nord sino ai piedi del tuo corpo celeste, ti cercavo scavando alibi, attraversavo bufere e tempeste. Tu non fare troppe domande, nessuno ti potrà rispondere. La mia terra fu da quel giorno solo poesia, solo il mio canto. La mia terra, solo poesia, solo canto. Sangue, terra nelle vene e pietre, chilometri di rughe sulla mia fronte, irriconoscibile sarei se ti avessi perso quando il silenzio trionfava nei meandri di me stesso, ma il tempo scava oltre tutti i confini. E mi ha mostrato arcobaleni. La mia terra fu da quel giorno solo poesia, solo il mio canto. La mia terra, solo poesia, solo canto.